siamo nel pieno di una seconda recessione, quindi soltanto non solo non parliamo di crescita non sufficiente, ma siamo in crescita negativa, come peraltro previsto ormai da mesi, e probabilmente questo trend, se dobbiamo prendere per buone le previsioni di quasi tutti i centri di ricerca, durerà per tutto l'anno in corso. Naturalmente il nostro compito tutti insieme è di invertire una tendenza che non solo non crea posti di lavoro, ma addirittura rischia di creare ulteriori problemi. Quando parliamo di crescita, ovviamente dobbiamo tener conto delle lezioni di questi ultimi anni, e quindi dobbiamo parlare di crescita sostenibile da un punto di vista finanziario, cioè non basato sul debito o sul debito cattivo o comunque sull'indebitamento del pubblico. Dobbiamo parlare di crescita sostenibile da un punto di vista di rapporto tra generazioni, da un punto di vista sociale, cioè crescita che crei posti di lavoro, perché come sapete abbiamo dei fenomeni di crescita in alcuni paesi che però è talmente concentrate in termini di benefici in categorie sociali così ristrette che poi, anche se c'è la crescita, non c'è l'effetto sulla società nel suo insieme. Ovviamente per fare crescita, almeno tolgo ovviamente, secondo noi e secondo me, per fare crescita dobbiamo agire sulle ragioni strutturali della non crescita, dobbiamo intervenire con riforme strutturali, dobbiamo creare le condizioni perché si possa riformare una condizione di crescita. Per fare questo abbiamo un piano molto dettagliato che mese dopo mese si sta riempiendo.